La storia e la memoria di Dino Pesole. Questa sera vi raccontiamo la storia, per molti versi inedita, di uno 007, di un agente del servizio speciale britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. Una storia decisamente attuale se pensiamo allo scandalo Datagate di questi giorni, una storia che sembra ritagliata proprio per un romanzo di Ian Fleming, l'autore inglese che, come tutti sappiamo, ha creato il leggendario James Bond. L'agente speciale in questione si chiamava Dick Malaby, una figura per molti versi poco conosciuta, ma ora nuovi e inediti particolari dell'attività che Malaby svolse nel nostro paese, in particolare dopo l'8 settembre del 43, emergono grazie al libro di Gianluca Barneschi, L'inglese che viaggiò con il re e Badoglio, le missioni dell'agente speciale Dick Malaby, appena pubblicato dall'editrice Goriziana. Ne parliamo con l'autore Gianluca Barneschi, che è in studio con noi. Buonasera. Buonasera e grazie ancora per avermi chiamato dopo 8 anni. Già, è vero, bentornato. Grazie. Malaby appare misteriosamente a bordo della corvetta Baionetta che portò in gran segreto da Roma a Brindisi la famiglia reale e Pietro Badoglio nel settembre del 43. Ecco, ma come è possibile che un inglese facesse parte di una comitiva così esclusiva? Ecco, esattamente questa domanda che ha dato origine alla mia indagine. A mo' di Don Abbondio mi sono chiesto Dick Malaby chi era costui e che cosa ci facesse. In realtà, molto sinteticamente, Dick Malaby si trovò ad essere la persona giusta al posto giusto nel momento giusto, perché catturato il 14 agosto del 1943 nel lago di Como, all'inizio della sua missione si era appunto paracadutato nottetempo nel lago di Como e, essendo stato appunto catturato senza neanche uniforme, sulla base delle vigenti convenzioni di guerra avrebbe potuto e dovuto essere fucilato all'istante. Però nel contempo, a migliaia di chilometri di distanza, succedeva qualcosa di decisivo, perché il generale Castellano stava negoziando la resa dell'Italia agli alleati e quando si passò agli accordi operativi le due parti si resero conto che avevano bisogno di un radiotelegrafista in grado di svolgere e di trasmettere e ricevere le trasmissioni, i messaggi segretissimi tra appunto i vertici italiani e quelli alleati ad Algeri con gli adeguati codici di sicurezza, soprattutto per non farsi scoprire dai tedeschi. E quindi Dick Malaby, anziché essere fucilato, venne portato di corsa a Roma, dove nel luogo più segreto e riservato dell'Italia dell'epoca, cioè nella sede del Comando Supremo, iniziò a ricevere e a trasmettere, ovviamente in codice, tutte quei messaggi che hanno poi determinato l'esatta consistenza, l'esatta essenza delle trattative tra italiani e alleati. Tra l'altro, da questi messaggi si ricava la soluzione a molte diatribe, a molti dubbi anche strumentali analitici e storiografici relativamente appunto alle trattative e all'infausto 8 settembre 1943. Ecco, allora, ma chi era veramente Dick Malaby? Malaby, membro del segretissimo Special Operations Executive, fu testimone e protagonista di alcuni tra i più rilevanti episodi della storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia. L'agente del SOE divenne un importante punto di collegamento fra italiani e alleati nelle trattative per l'armistizio del settembre del 1943. E nel febbraio del 1945 riuscì a convincere il capo delle SS in Italia, Karl Wolff, a intraprendere i colloqui segreti per quella che sarebbe divenuta la famosa resa degli 800.000. Cecil Richard Dallimore Malaby, detto Dick, era nato nell'attuale Sri Lanka il 26 aprile 1919. Il suo effettivo ingresso nei ranghi militari avvenne il 18 ottobre 1939. Venne inquadrato nel reggimento Devonshire, sezione telegrafisti. Poi, nel novembre 1941, venne trasferito nell'ottavo battaglione dell'esclusivo corpo dei comando. Entrato in contatto con lo Special Operation Executive, venne reclutato dalla stazione del Cairo. Era il gennaio del 1942. Ecco allora che comincia l'attività sul campo di questo agente speciale. Il SOE era un corpo speciale segretissimo che faceva ricorso a metodi e armi molto particolari. Oltre a una piccola moto pieghevole, il SOE realizzò una canoa sommergibile a propulsione elettrica soprannominata Bella Addormentata nel Bosco e un sommergibile in miniatura la cui esistenza è stata resa nota solo negli anni 90. Tra le armi utilizzate dagli agenti del SOE, oltre al Mitra Sten, figurava l'utilizzo del plastico, delle mine magnetiche, della canoa pieghevole, dei detonatori temporizzati. Ma uno degli esperimenti più creativi fu senz'altro il topo esplosivo. Decine di roditori furono scuoiati, riempiti di plastico e ricuciti. Collocati vicino a delle caldaie, i finti roditori venivano gettati nel fuoco da quanti vi si imbattevano, con conseguenti devastanti esplosioni. E ancora penne e saponette esplosive, la polvere pruriginosa, le false bottiglie Chianti. Insomma, Gianluca Barneschi, un armamentario di tutto rispetto questo del SOE. Sì, un armamentario di tutto rispetto, cui trasposizioni commerciali, diciamo così, non si sono viste solo nei film di 007, ma molte di queste diavolerie inventate dai tecnici del SOE sono arrivate fino ai nostri tempi, fino all'inizio dell'epoca digitale. Poi vorrei ricordare con un po' di nostalgia un qualcosa inventato dal SOE, usato specialmente in Grecia, che ha allietato le nostre giovanili permanenze nei cinema parrocchiali e anche a carnevale, che sono le fialette puzzolenti. Ah già, c'erano anche queste. C'erano anche queste. Pare che ebbero un grosso successo perché i partigiani greci li usavano nei cinema e nei locali da ballo dove andavano gli italiani e i tedeschi, insomma. Ecco, allora, a parte, diciamo, questi tratteggi molto interessanti e inediti, ma che ruolo ebbe Dick Malaby effettivamente nelle trattative che precedettero l'armistizio dell'8 settembre 43? Poi parliamo anche della seconda parte, certo, dell'attività, della seconda missione. Il ruolo di Malaby fu essenziale, perché, come ho detto prima, lui si trovò ad essere la persona giusta al momento giusto e nel luogo giusto, anche se il luogo giusto era Roma, e lui fu portato, come detto prima, da Como a Roma. E le comunicazioni operative tra italiani e alleati senza Malaby non avrebbero potuto aver luogo, o perlomeno non avrebbero potuto aver luogo così facilmente. E tanto Malaby era diventato essenziale e decisivo che, appunto, quando il re e i vertici politico-istituzionali del Regno d'Italia nella mattina del 9 settembre 1943 decidono di abbandonare Roma e scappare fino a giungere appunto a Brindisi, come ben sappiamo, si portano dietro Dick Malaby, che in quelle ore, in quei giorni, fu l'unico contatto tra questo nucleo politico-istituzionale del Regno d'Italia e gli alleati, perché gli alleati da Algeri non avevano la più pallida idea di quello che stesse succedendo in Italia e di quello che successe effettivamente in Italia in seguito alla qui fuga. Qui sorge una domanda, forse i nostri ascoltatori probabilmente se la stanno facendo, ma allora, data la rilevanza di questo personaggio, come mai è così poco conosciuto? Ecco, io ho lavorato per 10 anni su questa ricerca, e da un lato io sono ben contento di essere stato il primo ad interessarmi, anche perché il lavoro che ho fatto io fortunosamente mi ha permesso di avere, grazie alla cortesia della famiglia di Malaby, la sua moglie è ancora viva, e tra l'altro lavorava anche lei nel SOE, lavorava ad Algeri nel reparto decrittazione dei messaggi segreti, e poi ho avuto anche altre botte di fortuna in questa mia ricerca. Il lavoro che ho fatto io, appunto, è un lavoro che forse pochi avrebbero potuto fare, però se da un lato io sono orgoglioso di questo aspetto, come, diciamo, cittadino, come persona interessata alla storia, sono anche un po' avvilito perché nessuno, appunto, in 70 anni si è posto la domanda che mi sono posto io all'inizio di questa ricerca: cosa ci facesse un inglese insieme al re Badoglio e a tutti gli altri a Brindisi nel settembre del 1943. E già, perché poi qui veniamo alla seconda parte del libro, perché Malleby ebbe un ruolo fondamentale anche nei suoi rapporti con Wolf. E come riuscì a entrare in contatto col numero uno dell'SS in Italia? E ancora una volta Malleby arrivò nel febbraio del 1945 insieme ad alcuni partigiani nel lago di Como. Ancora una volta fu catturato immediatamente, il lago di Como non gli portava bene. Mm-hmm. E a quel punto lui capì che per evitare il plotone d'esecuzione doveva inventarsi qualcosa di straordinario. E lui si inventò questa innocua, sembrava, balla, nel senso che lui disse prima agli italiani, poi ai tedeschi, di essere l'autore di un messaggio riservatissimo del feldmaresciallo Alexander per Graziani, tendente a stabilire un accordo per evitare che l'Italia settentrionale fosse distrutta nel corso della resa dei tedeschi. Sorprendentemente questa balla estemporanea prese corpo e fu ritenuta interessante, comunque rilevante, prima dagli italiani e poi dai tedeschi, sinché una sera di fine febbraio Malleby si trovò in un sorprendente tête-à-tête con Karl Wolf, il temibile capo delle SS in Italia, che altrettanto incredibilmente lo liberò e lo mandò in Svizzera, appunto per perfezionare la sua missione. E quindi stiamo parlando, abbiamo quasi concluso, stiamo parlando dei mesi che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente tutto concentrato in pochi mesi. Assolutamente, e questa missione fu talmente imbarazzante per gli inglesi che immediatamente ne venne vietata la divulgazione addirittura all'interno del SOE. Non dobbiamo dimenticarci, concludendo, che questo Special Operation Executive era un corpo che, essendo destinato alla guerra sporca, in gergo lo si chiamava il Ministero della Guerra Scortese, era mal visto soprattutto dagli altri corpi speciali, dai servizi segreti e anche dalla intelligenza delle forze armate britanniche, che avevano questo stile appunto di guerra cavalleresca. E questo ha fatto sì, concludo con una specie di slogan, che non solo la storia l'hanno scritta i vincitori, ma anche la ripartizione dei meriti è stata fatta dai vincitori, e i meriti che ha avuto il SOE sono stati ignorati, anche perché del SOE stesso si negava l'esistenza fino a una ventina di anni fa. Bene, grazie a Gianluca Barneschi, chiudiamo appuntamento a un prossimo grazie, libro. Il primo, lo ricordiamo, era sulla tragedia di Balvano del 1944. Buona serata. Grazie, buonasera.